pensavo, non ci crederai. E infatti non ci credi mai, non ci credi mai. Ci messaggiamo come sto, come stai, bene. Ma come siamo arrivati a un forse da un forever. E da quando ci siamo lasciati, di cuori instagrammati. Ma se clicchi sulle mie foto, ti escono i cuori spezzati. E ti rivedo in un hostess mentre mi prende all'imbarco la borsa. Talmente uguali che mentre la guardo negli occhi sembra che mi riconosca. E sembra fatto apposta, sulla targhetta c'è pure scritto il tuo nome. È strano quando il destino cambia destinazione. E insieme non riusciamo a stare, ma senza noi non ci sentiamo più vivi. Noi che ci amiamo per mille ragioni, ora lasciamoci senza motivi. E ti giuro che io non lo so ci divido a me. Ci siamo persi io e te, tra me non lo so. Ed è tuo vorrei. Adesso in che parte del mondo sei? Ti fai troppi viaggi che non sono i miei. Se guardo quella foto io mi chiedo se sei tu che guardi il cielo, lui che guarda te. Se guardo quella foto io mi chiedo se pensavi, chi ci crede, noi che ci siamo lasciati con un ci si vede. Io pieno di ma, lei piena di sé, agli occhi troppo grandi per guardare solo me. Io che non penso al futuro, perché il futuro è già oggi. E devo imparare a lasciare il mio segno, senza lasciare i miei sogni. Le speranze con cui darsi carica, i problemi di cui farsi carico. Tu che non metti neanche l'orologio per non sentire il tempo farsi rapido. E piangevi guardandola fuori, in mezzo alle macchine che transitavano. Perché dicevi che certi paesaggi tu li vivi come stati d'animo. Noi parlavamo di tutto, ma forse non ti amo. Non siamo riusciti mai a dirlo, ma ci saremmo buttati nel vuoto, insieme solo per riempirlo.